Bentornati su Radio Città Fujiko, io sono Eleonora e ora parleremo di un nuovo film che verrà proiettato a breve nei cinema di Bologna. Chiediamo qualcosa direttamente al regista e sceneggiatore Francesco Tavella, con cui siamo in collegamento. Benvenuto Francesco! Ciao Eleonora, buon pomeriggio a te e ai tuoi radioascoltatori, e dico radioascoltatori perché Cocorico Tapes è un film analogico, mi fa pensare alle cose passate, al modo di fare cui si toccavano gli oggetti. Allora, raccontaci qualcosa di questo nuovo film, com'è nata l'idea di crearlo? L'idea è nata tramite un amico che poi è il musicista del film e che mi ha detto di conoscere delle persone che avevano dei materiali inediti in VHS del Cocorico girati da persone che erano amici dell'entourage dell'epoca, e da lì è cominciata una piccola scalata sia nell'acquisizione di sempre più materiale sia nella conoscenza di chi il Cocorico di quegli anni lo ha fatto, quindi principalmente Renzo Palmieri che era il direttore del locale, Loris Riccardi, che è stato il direttore artistico, persone che hanno creato quel movimento in quegli anni e che ci hanno aiutato a riproporre, ricreare la sensazione di una serata al Cocorico negli anni 90. Quindi parla non della storia del Cocorico, ma del movimento della discoteca che c'era in quegli anni. Diciamo che non parla né dell'uno né dell'altro, in verità, non è un biografico sul Cocorico. Il Cocorico è forse un pretesto per poter raccontare qualcosa di più. La creatività, la follia, forse da un certo punto di vista, l'innovazione che gli anni 90 hanno avuto sulle persone e sulla società. Il film è composto principalmente di materiali d'archivio originali, e non ci interessava fare un film sui ricordi delle sensazioni, non ci interessava fare un film in cui tutto era bello, tutto era magico, anzi al contrario. Il Cocorico di quegli anni nasceva dalle angosce, dalle perplessità nei confronti del mondo intero, del sentire di quel momento, e il film in un certo senso ripercorre quella linea lì, mettendo all'interno di questa narrazione quelli che sono stati gli eventi storici caratterizzanti di quel periodo. Quindi è questo, è un insieme di memorie legate a un immaginario di divertimento e a un immaginario di angosce. Insomma, uno spaccato autentico di quello che è stato in quegli anni. Che cosa ha rappresentato il Cocorico per quel movimento? Credo che per i giovani degli anni 90 la discoteca fosse un stacco dal resto del mondo, dalla famiglia, dal lavoro, dalla scuola, la necessità di diventare qualcosa di diverso almeno il venerdì e il sabato. E quindi per quelle persone il Cocorico era un'occasione per immergersi in un mondo che fuori da lì non esisteva o che esisteva solo in parte, perché poi è pur vero che il Cocorico era fatto da persone, queste persone venivano da varie parti d'Italia con le loro personalità, e insieme di personalità che lì dentro si sentivano autorizzate ad essere libere e creative, hanno creato un'energia che è il Cocorico di quegli anni. E chi lo faceva in termini creativi e pratici, cioè chi aveva la discoteca in mano, proponeva delle cose, ma quelle cose venivano assolutamente valorizzate e comprese da chi il Cocorico lo frequentava. Quindi, insomma, le persone si sentivano, diciamo, protagoniste, si sentivano libere dal Cocorico. Assolutamente, la bellezza del Cocorico è che già degli anni 90 lanciava dei messaggi inclusivi, nel quale la diversità era ben accetti, quelli che si sentivano in un certo senso emarginati, loro erano assolutamente benvenuti al Cocorico, dove potevano trovare persone simili a loro. Allora, quando sarà proiettato il film? Noi siamo molto curiosi di vederlo. Il film verrà proiettato 11 gennaio al Cinema Galliera di Bologna con due proiezioni, una alle 19 e una alle 21.30, e sempre al Galliera il 14 gennaio, che è domenica, alle 21.30. Perfetto, grazie mille per averci risposto ed essere stato con noi. Grazie mille a te, invito te e tutti i tuoi radioascoltatori a venire al cinema a vedere Cocorico Tapes. Un abbraccio.